Capitolo 20. Sorprese. Era il crepuscolo. Joe stava sul vecchio sofà, sola, a guardare il fuoco e a pensare. Era il suo modo preferito per passare quell'ora. Nessuno la disturbava. Seduta sul piccolo cuscino rosso di Beth, ella fantasticava sulla trama di un racconto, o sognava, o volgeva il ricordo pieno di tenerezza alla sorella, che non c'era più, ma che per lei non era mai molto lontana. Il suo volto aveva un'espressione stanca, greve, un po' triste. Domani era il suo natalizio, come passavano presto gli anni. E come invecchiava, e quanto poco le pareva di aver fatto. 25 anni, e con che risultato? In questo Joe si ingannava, non era stata una vita del tutto sterile la sua, riflettendoci meglio se ne accorgeva e rendeva grazie al cielo. Una zitellona, ecco quello che divento. Una zitellona letterata con la penna per marito, un mucchio di racconti per figliuoli e fra 20 anni, sì e no, un po' di fama, quando, come il povero Johnson, sarò già vecchia e non ne godrò. Sarò sola e non avrò con chi dividerla. Forse avrò anche l'agiatezza e non saprò che farne. Basta, cerchiamo di non diventare una santa inacidita o una peccatrice egoista. In fin dei conti, lo stato di signorina anziana non è brutto. Tutto sta a sapermici abituare e rassegnare. Ma... E Joe mise un sospiro. La prospettiva, pare, non le sorridesse. Poche sono del resto le persone a cui sorride. A 25 anni pare che i 30 saranno la fine di ogni cosa. Invece no, non è così, e si può tirare avanti benone se uno ha in sé qualche cosa. A 25 anni una ragazza comincia, è vero, a considerarsi matura, ma spera ancora che gli altri la vedano diversamente. A 30 non se ne parla più, si accetta in pace il destino e se si ha giudizio ci si consola pensando che rimane una 20ina d'anni da vivere e che si possono impiegare bene e con soddisfazione imparando a invecchiare con grazia. Non ne ridete, o giovinette, delle povere signorine che invecchiano. Voi non sapete quale storia gentile o sconsolata può nascondere un cuore che batte con ritmo rallentato sotto una veste grave e modesta. Forse il sacrificio silenzioso di chi ha rinunciato alla giovinezza, all'amore, fa sì che quel volto appassito risplenda di una particolare bellezza agli occhi del divino. Anche una vecchia signorina triste, inacidita, va trattata con gentilezza, se non altro perché ha perduto il meglio della vita. E voi, ragazzi, siate gentili con le signorine anziane, anche se sono povere, anche se un pochino vi fanno ridere le loro idee, le loro maniere da altri tempi. La vera cavalleria è quella che per impulso spontaneo rende omaggio al vecchio, protegge il debole, serve la donna, senza distinzione di grado sociale e di età. Ricordatevele, quelle vecchie zie un po' pignole e invadenti magari, che vi hanno fatto la morale, ma vi hanno anche fatto da bambinaie, da madri affettuose, troppe volte senza aver avuto nemmeno un grazie. Ricordatevi di quando vi toglievano da un guaio, quando venivano in vostro aiuto coi loro modesti risparmi, quando con le vecchie dita pazienti davano qualche punto per rimediare o per nascondere d'urgenza lo strappo compromettente. Ricordate le fatiche sostenute, i passi fatti per voi con le povere gambe ormai stanche. Pagatelo il vostro debito di riconoscenza a quelle care vecchine, non negate loro quelle piccole attenzioni che la donna ama ricevere sempre. Le signorine hanno occhi che vedono ed osservano, e se notano subito quelle piccole attenzioni alle zie, e vi apprezzano. Joe si doveva essere addormentata, come temo anche la lettrice della predica che precede, poiché all'improvviso le sembrò di vedersi davanti un'apparizione, Lori. Ma l'apparizione era in carne e ossa, era viva, e si chinava sopra Joe, proprio con quell'aria che aveva Lori quando era assai commosso e non voleva farlo vedere. Come Jenny nella ballata, Joe non credeva ai propri occhi e guardava a bocca aperta. Ma il fantasma le si accostò e l'abbracciò. Allora Joe lo riconobbe, balzò in piedi esclamando tutta allegra: «Oh, Teddy, il mio Teddy!» «Cara Joe, dunque, sei contenta di rivedermi?» «Contenta? Ragazzo mio caro, non so dirti quanto. Dov'è Amy?» «Se l'è tenuta con sé la mamma, da Meg. Ci siamo fermati passando e non c'è stato modo di portargliela via, mia moglie.» «Tua che?» esclamò Joe, poiché Lori pronunciava le due parole con tanto gusto che, si vedeva, non era riuscito a trattenerle e gli era sfuggita la confessione. Diavolo, ormai è fatta, e prese un'aria tale da colpevole che Joe gli piombò addosso con la prontezza della folgore. Vi siete sposati? Sì, perdono, non lo farò più. E lo ricadde in ginocchio a mani giunte, con la faccia sbarazzina e trionfante di quando ne aveva fatta una delle sue. Ma sposati proprio? Oh, di più non si potrebbe essere, sicuro? Grazie. Oh, cosa ti resta ancora da fare adesso? E Joe cadde a sedere ansando. Beh, congratulazione tipica di Joe, se non è proprio un complimento. Osservò Lori, sempre in ginocchio, ma raggiante di soddisfazione. Cos'altro ti vuoi aspettare? Entri qui in punta di piedi come un ladro e spari una bomba da lasciare la gente senza fiato? Alzati in piedi, ridicolo, e raccontami tutto. Non racconto niente se non mi lasci venire al mio vecchio posto e non prometti che non farai la barricata. Joe si mise a ridere come non rideva da molto tempo e battendo con la palma della mano il sofà accanto a sé disse, accogliente e cordiale, «Il salsicciotto è andato a finire su, in soffitta. Adesso non ce n'è bisogno. Su, Teddy, vieni a confessarti». «Ah, come mi fa bene sentirmi chiamare Teddy. Nessuno mi dà quel nome adesso, salvo te». E Lori, contento, andò a sedersi al posto indicatogli. «Beh, Amy come ti chiama?» «Signor mio, milord». È sempre lei. Beh, del resto ne hai l'aria, e gli occhi di Joe dissero chiaro che lo trovava più bello che mai il suo ragazzo. Non c'era più il salsicciotto, ma la barricata esisteva sempre. Una barricata innalzata dal tempo, dall'assenza, dal mutamento avvenuto nei cuori. Ambedue lo sentirono, e per un po' stettero a guardarsi come se l'ostacolo invisibile gettasse su loro una piccola ombra, ma subito passò. E allora Lori, cercando invano di riuscire dignitoso, domandò «Non ho forse l'aria di un uomo ammogliato? Di un capo di famiglia?» «Nemmeno per sogno, e non l'avrai mai. Ti sei fatto più grosso e più bello, ma sei più scappato di prima». «Veramente, Joe, mi pare che mi dovresti trattare con più rispetto», cominciò Lori divertendosi un mondo. «Com'è possibile? La sola idea che tu sei un uomo ammogliato e sistemato mi fa venire da ridere, e non riesco a trattenermi». Gli rispose Joe. Tutto il volto di lei sorrideva in una maniera così contagiosa che scoppiarono ambedue in un'altra risata e poi si misero a ragionare pacatamente proprio come una volta. «È inutile che tu ti esponga al freddo per andare a prendere Amy. Fra poco saranno qui tutte. Io sono venuto prima perché non potevo aspettare. Volevo essere io a farti la grande sorpresa. Per avere il meglio della panna, come dicevamo quando si faceva gara per conquistarlo». «Già. E hai guastato tutto l'effetto cominciando dalla fine. Adesso ricomincia dal principio e racconta tutto in ordine. Com'è andata? Non vedo l'ora di saperlo». «Ecco, ho fatto così per far piacere ad Amy», cominciò Lori ammiccando con l'occhio. Joe saltò su. «Balla numero uno! È stata Amy che ha voluto far piacere a te. Continuate, signorino, e dite la verità se vi riesce». «Ma com'è buffa adesso questa qui che mi si mette a fare la mamma?» disse Lori parlando al caminetto, e il fuoco gli rispose con uno scoppiettio di scintille come per dargli ragione. «È la stessa, vedi? Lei e io formiamo un essere solo. Avevamo stabilito di tornare coi Carroll, un mese fa o poco più, ma ad un tratto loro hanno cambiato programma e hanno deciso di passare un altro inverno a Parigi. Il nonno invece voleva tornare. Si era mosso di casa per far piacere a me, non potevo quindi lasciarlo tornare da solo, e d'altra parte non potevo staccarmi da Amy. La signora Carroll ha certe idee antiquate, inglesi, sulla necessità di un paravento, di uno chaperon e simili sciocchezze. Così non voleva permettere che Amy tornasse con due uomini. Allora io, per troncare le difficoltà, ho detto, beh, sposiamoci, così saremo liberi di fare ciò che vogliamo». «Naturalmente, tu le cose le accomodi sempre nel modo che piace a te». «Non sempre». C'era nella voce di Lori una vibrazione strana che fece dire a Joe in fretta. «E la zia? Come hai fatto a persuaderla?» «Oh, ce n'è voluto, sai. Ma si è detto fra noi, l'abbiamo vinta, perché dalla nostra avevamo tante ragioni. Non c'era tempo di scrivere qui per chiedere il permesso, e d'altra parte, siccome del consenso eravamo sicuri, l'unica era di cogliere l'occasione al volo, come dice mia moglie». Questa volta fu Joe che si rivolse al caminetto. «Ma senti con che gusto le dice queste due parole, eh? E con che aria?» Ella esclamò. Negli occhi dell'amico ora c'era una luce di felicità, tanto diversa dalla disperazione di quel giorno che partiva. «Forse hai ragione, ma come si fa a non essere orgogliosi quando si ha una mogliettina come la mia? Dunque, riprendiamo il racconto. Lo zio e la zia c'erano, e perciò la forma era salva. Noi due poi eravamo talmente assorbiti l'uno nell'altra che a staccarci non valevamo più nulla. Così, con questa decisione proposta, tutto si aggiustava, per cui ci siamo sposati. Quando? Dove? Come? Domandò Joe. Ardeva di curiosità, voleva sapere tutto per filo e per segno. Lori le rispose in ordine: 6 settimane fa al consolato americano a Parigi. Un matrimonio modestissimo, si intende, perché anche nella nostra felicità non ci scordavamo mai della cara piccola Beth. Joe gli mise una mano nella sua e Lori con l'altra spianava il cuscino rosso che gli ben ricordava. E perché non ce l'avete scritto subito? Chiese Joe a bassa voce, dopo un breve silenzio. Volevamo farvi la sorpresa, credevamo di partire subito, ma il nonno si accorse, appena celebrato il matrimonio, che non poteva sbrigarsi in meno di un mese, seppure bastava, e ci spedì a passare la luna di miele dove volevamo. Una volta Amy aveva detto che il vero luogo indicato era Valrosa, e là andammo, e fummo felici come si è solo una volta nella vita, l'amore fra le rose. Lori parve scordare per un momento la presenza di Joe, e Joe ne ebbe piacere. Se egli le parlava di certe cose con tanta disinvoltura, era segno che l'aveva ben perdonata e che aveva dimenticato. Provò adagio adagio a ritirare la mano, ma parve che Lori indovinasse il perché di quell'impulso quasi involontario e la tenne stretta, dicendole con una gravità di persona adulta che lei non aveva mai osservato in lui: «Cara Joe, voglio dirti una cosa e dopo non se ne parlerà più. Nella lettera in cui ti raccontavo quanto era stata buona con Amy, dicevo pure che ti avrei amata sempre. Lo confermo anche oggi. Ma l'amore è un altro e io mi sono convinto che è meglio così. Amy e tu vi siete scambiato il posto che occupavate nel mio cuore. Ecco tutto. Penso che fosse destino e sarebbe accaduto naturalmente, bastava aspettare. Tu lo volevi fin da allora, io sono più impaziente, ne ho fatto una passione. Ero un ragazzaccio ostinato e impetuoso. Ci voleva una lezione severa per farmi vedere il mio sbaglio. Perché sbaglio era, Joe. Tu me lo avevi detto, io me ne accorsi dopo, ma prima feci lo sciocco. La verità è che in un certo momento avevo la testa confusa, non sapevo quale volevo di voi due e pensavo di potervi amare tutte e due insieme. Ma era impossibile. E quando in Svizzera ritrovai Amy, ben presto ogni cosa mi si chiarì. Ciascuna di voi trovò il suo posto giusto. E io mi accorsi che il primo amore era passato prima che mi rendessi conto del nuovo. E anche vidi che potevo senza rimorso dividere il mio cuore fra voi due, Joe la sorella e Amy la moglie, e amarvi ambedue con tutto il cuore. Mi credi tu, Joe? Vogliamo tornare ai bei tempi di una volta quando ci siamo conosciuti? Ti credo, Teddy, con tutta l'anima. Ma allora eravamo ragazzi, e ragazzi non si ridiventa. I bei tempi felici non tornano più, non possiamo pretenderlo. Ora siamo un uomo e una donna, con una vita da vivere, dei doveri da compiere. È passata l'età dei giochi e degli scherzi. Sono certa che tu ora sei convinto. Io ti vedo cambiato e tu pure devi vedere il cambiamento avvenuto in me. Vorrei ancora averlo qui, il mio ragazzo, ma l'uomo che gli è divenuto lo amo ugualmente e lo ammiro anche più perché so che è deciso ad essere quello che io ho sempre sperato che fosse. Non saremo più i compagni di giochi di allora, ma saremo sempre fratello e sorella e ci vorremo bene e ci aiuteremo per tutta la vita. È vero, Lori? Egli non disse una parola, ma prese la mano che essa gli offriva e vi appoggiò il volto per un minuto. Sentiva che dalla fine di una passione giovanile era nata una bella, forte amicizia che sarebbe stata per ambedue una benedizione. E Joe, senza tristezza, osservò: «Non riesco a capacitarmi che voi due siate davvero marito e moglie e che avrete una casa. Mi pare ieri quando abbottonavo il grembiulone ad Amy e tiravo i capelli a te perché facevi capricci». Ah, come vola il tempo. Pensa che uno di questi due ragazzi è nato prima di te. Non parlare come se tu fossi la nostra nonna. Io voglio sperare di essere un signore cresciuto, come diceva Peggotty di David Copperfield. E Amy, se la guardi bene, ti accorgi che come bimba sarebbe piuttosto sviluppata. Osservò Lori, sorridendo delle arie materne di Joe. Qualche anno più di me lo avrai tu, ma io sono molto più vecchia come sentimenti. La donna matura prima. E quest'ultimo anno è stato per me così duro che mi sento come se ne avessi 40. Povera Jo, t'abbiamo lasciata sola e noi stavamo a divertirci. È vero, ne hai più di noi di anni. Ecco qui una ruga, un'altra più in su, e il tuo sguardo è triste quando non sorridi. Un momento fa con la mano ho sentito il cuscino bagnato, c'era caduta una lacrima. Molto hai avuto da soffrire tutto da sola, che brutto egoista sono stato. E Lori si tirava i capelli con un'espressione di rimorso. Maggiori voltò il cuscino che l'aveva denunziata e rispose con un tono più sollevato. Sola no, avevo il babbo e la mamma e i due nipotini tanto cari e il pensiero che tu ed Amy stavate bene ed eravate felici. Tutto ciò mi ha aiutato a sopportare pensieri e affanni. Sola mi sento, è vero, qualche volta. Ma direi piuttosto che mi fa bene, che... Oh, non ti lasceremo più sola, esclamò Lori, cingendola col braccio, come a proteggerla da ogni male terreno. Amy e io senza te non si andrebbe avanti. Tu verrai a insegnare a questi due ragazzi come si tiene la casa e dividerai la vita con noi, come una volta. E noi ti faremo tante carezze e staremo insieme felici e contenti. Se non fossi d'impaccio, sarebbe una cosa bellissima. Già mi sento ringiovanita. Mi pare che a solo rivederti i miei pensieri tristi siano tutti volati via. Tu sei stato sempre il mio conforto, Teddy. E Joey abbandonò il capo sopra una spalla come anni prima, quando Beth era malata e Lori le aveva detto «Attaccati a me». Egli si chinò a guardarla in volto. Se ne ricordava, Joey, di quel giorno. Ma ella sorrideva sempre a se stessa, come se davvero con l'arrivo dell'amico tutti i pensieri fossero dileguati. Tu sei sempre la stessa Jo, che un minuto piange e un minuto dopo ride, ma in questo momento ti vedo negli occhi un'espressione maliziosa. Che c'è, nonna? Penso, come vi trovate tu e Amy insieme? Come due angeli. Si capisce, da principio, ma chi dei due comanda? Lei, te lo confesso, per ora. Almeno glielo lascio credere. Ci gode, capirai. Ma col tempo comanderemo un po' per uno a turno. Il matrimonio, dicono, riduce a metà i diritti di ciascuno e raddoppia i doveri. E io ti dico che continuerete come avete cominciato ed Amy sarà quella che comanderà sempre. Beh, senti, comanda in un modo così leggero, così impercettibile che io non credo ci farò molto caso. Amy è di quelle donne che sanno comandare bene. Ti dirò, anzi, che tutto sommato mi ci diverto. Quella si avvolge una persona attorno al dito come una matassa di seta, ma lo fa con tanto garbo che quasi quasi viene voglia di ringraziarla. Anche questo dovevo vedere. Lori con la gonnella, e piacermi, esclamò Joe levando ambedue le braccia. Fu uno spettacolo allora vedere con che sorriso sdegnoso Lori levò il capo davanti a tante insinuazioni e con che autorità rispose. Prima di tutto Amy è troppo educata per fare la moglie coi pantaloni e poi io non sarei uomo da tollerarlo. C'è troppo rispetto reciproco fra noi due per arrivare alle prepotenze e alle liti. La spiegazione piacque a Joe, la quale trovò che l'aria dignitosa stava molto bene a Lori, anche troppo bene. Quasi che il suo ragazzo diventasse uomo a vista d'occhio e il piacere di lei non era del tutto scevro da rimpianti. «Non ne dubito», ella disse. «Da ragazzi non litigavate mai, tu ed Amy, mentre con me... Lei è come il sole, io sono come il vento della favola. Se ti ricordi, il sole fu quello dei due che riuscì meglio a fare all'uomo ciò che voleva». «Lei può fare come vuole», disse ridendo Lori. «Può soffiare e può risplendere. Avessi sentito che predica mi ha fatto a Nizza. Ti do la mia parola, era peggio di tutte le tue. Una strigliata in piena regola». Un giorno ti racconterò. Lei non te ne parlerà mai perché, dopo avermi detto che mi disprezzava e si vergognava di me, finì col donare il suo cuore all'essere spregevole. Lo accettò per marito, il buono a nulla. Che vergogna. Senti, se qualche volta te ne dice troppe, tu vieni da me, ti difenderò io. Ho l'aria di averne bisogno, secondo te? Chiese Lori, levandosi e prendendo una posa in cui alla dignità e all'imponenza succedette l'estasi. Perché proprio in quel momento si udì la voce di Amy che giungeva gridando «Ma dove s'è cacciata la mia vecchia Jo?» Ed entrò tutta la famiglia. I tre reduci dall'Europa, quando ebbero termine gli abbracci e i baci ripetuti, si trovarono finalmente allineati davanti agli altri, a farsi ammirare e congratulare. Il signor Lawrence era più vispo e rubizzo che mai. Il viaggio all'estero gli aveva fatto bene quanto ai nipoti. Perduta o quasi quell'aria un po' ammuffita, la sua vernice di cortesia all'antica appariva più fresca, come rinnovata. Era bello vedere con quale aria raggiante se li guardava i suoi due ragazzi. Più bella ancora la deferenza filiale, affettuosa, con cui Amy aveva finito di conquistare del tutto il suo vecchio cuore. Sopra ogni cosa, con che ammirazione se la guardava Lori, la coppia formata dal vecchio nonno e dalla giovane sposa. Meg, appena dato un'occhiata ad Amy, subito sentì di non avere l'aria di vestirsi a Parigi. Pensò pure che l'amica Moffat era completamente eclissata dalla giovane signora Lawrence e che sua signoria era proprio la più elegante e graziosa delle dame. Joe osservava la giovane coppia e pensava: ma come stanno bene insieme? Avevo proprio ragione io. Lori ha trovato la donna bella, la dama compita che ci voleva per la sua casa. Là dentro sarà molto più a posto lei che questa vecchia e sgraziata Joe. E sarà l'orgoglio di Lori e non il suo tormento. La mamma e il signor March, sorridenti, si scambiavano ogni tanto uno sguardo e un cenno di approvazione, di ammirazione. La figlia minore aveva proprio fatto un matrimonio magnifico, non solo sotto l'aspetto mondano, ma anche sotto quello della ricchezza che conta di più, la ricchezza che è fatta di amore, di fede reciproca e di felicità. Perché il volto di Emira, soffuso di quella dolcezza e insieme di quella vivacità che indicano un cuore soddisfatto. Nella sua voce si sentiva una tenerezza nuova, la fredda compostezza di una volta era diventata dignità femminile, dolce e suadente, senza ombra di affettazione. E la cordialità delle maniere era più attraente della nuova bellezza e della grazia di allora, poiché era il segno indubbio della vera donna che Amy aveva sempre aspirato a diventare. L'amore ha fatto molto per la nostra piccina, disse la madre sottovoce. Ha avuto davanti per tutta la vita un modello, cara, le rispose il signor March nello stesso tono, mentre rivolgeva uno sguardo d'amore al volto appassito e alla testa grigia della sua compagna. Daisy non riusciva a staccare gli sguardi dalla zia Bella e le manine dalla meravigliosa Chatelaine piena di amuleti interessanti. Pareva un canino al guinzaglio. Demi, prima di compromettersi con la nuova parente e accettare da lei un dono impegnativo rappresentato da una famiglia di orsacchiotti di legno, ricordo di Berna, la stette a studiare un poco, ma un attacco aggirante ottenne la resa senza condizioni e fu merito di Lori che se ne intendeva. Giovanotto, quando ebbi l'onore di fare la vostra conoscenza mi avete dato un pugno sul muso. Ora sono qui a domandarvi soddisfazione, da gentiluomo. E lo zio grande prese il minuscolo nipote e lo fece rotolare sul sofà. Lo scherzo confidenziale compromise irreparabilmente la dignitosa serietà del giovane pensatore, provocando l'ilarità irresistibile del fanciullo. Ma guarda, se non è tutta in seta dalla testa ai piedi. Non è una delizia vederla così bella e lustra e a sentirla chiamare Mrs. Lawrence, la piccola Amy. Così esprimeva la sua ammirazione, brontolando fra i denti, la vecchia Anna, che mentre apparecchiava la tavola con frequenti distrazioni sentiva ad ogni momento il bisogno di accostarsi alla fessura della porta socchiusa per guardare. Ma quante cose avevano da dirsi. Prima uno, poi un altro, poi tutti insieme, avevano da raccontare in mezz'ora la storia di 3 anni. Per fortuna era pronto il tè, che recò un po' di silenzio e di ristoro. Se continuavano ancora, rimanevano tutti senza voce e senza forze. La processione esultante passò nel tinello. Il signor March, tutto orgoglioso, dava il braccio a Mrs. Lawrence. La signora March, non meno fiera, si appoggiava a quello del figliuolo. E il vecchio Lawrence prese Joe, dicendole sottovoce: «Adesso la mia ragazza sei tu». E dando un'occhiata al cantuccio vuoto presso il caminetto. E Joe sottovoce, con le labbra tremanti: cercherò di occuparlo bene, il posto. Venivano poi esultanti i due piccini. Avevano la sensazione che fosse prossimo il finimondo dal momento che li lasciavano liberi di fare il comodaccio loro. E si può star certi che ne approfittavano dell'occasione. Sorsate di tè, biscottini a volontà, un biscotto grande intero a testa e infine, licenza suprema, ciascuno dei due di nascosto si mise nella tasca del grembiulino una tartina. Grave la coscienza di rimorsi e timorosi che il lieve ostacolo del cambrì e della lana che nascondeva la refurtiva non bastasse, contro uno sguardo linceo di dodo, i due colpevoli cercavano rifugio presso il nonno, che in quel momento era senza occhiali. Amy Passò di mano in mano come la guantiera dei dolci e tornò in salotto al braccio di Lawrence Senior. Le altre coppie erano come prima, sicché Joe restò senza cavaliere. Subito non ci fece caso, perché la trattenne Anna per domandarle ansiosa, ma Amy andrà in coupé e adopererà tutti quei bei piatti d'argento che ha là nella sua casa? Non mi stupirei se si facesse tirare da 6 cavalli bianchi e mangiasse nell'oro e portasse pizzi e diamanti tutti i giorni. Per te di niente è bello abbastanza quando si tratta di sua moglie, assicurò Joe contentissima. E ha ragione. Polpette o pesce a colazione? Le chiese Anna saggiamente, mescolando poesia e prosa. Ah, per me è indifferente. E Joe chiuse la porta. Come si poteva pensare alla colazione in un momento come quello? Per un po' seguì con l'occhio la compagnia su per la scala. Quando i pantaloncini di Demi scomparvero in cima, un senso improvviso di solitudine la invase così forte che ella volse attorno uno sguardo vago, come cercasse su chi appoggiarsi, ora che anche Teddy l'abbandonava. Se avesse immaginato quale dono per la sua festa si stava avvicinando, non avrebbe formulato questo programma non troppo allegro. Oh, mi farò un bel pianterello stasera a letto, ma qui bisogna che cerchi di non essere la guastafeste. E asciugatesi le lacrime, con la mano, avendo sempre conservato l'abitudine infantile di non sapere dove aveva il fazzoletto, compose il volto ad un sorriso. E in quel momento, alla porta di casa, qualcuno bussò. Joe accorse con premura e appena aperto rimase di stucco. Chi era quel fantasma? L'apparenza era di un signore grosso e barbuto che dalla penombra raggiava luce su di lei. Un vero sole di mezzanotte. «Oh, signor Baer! Ma quale piacere!» esclamò Joe. Le si formò un nodo in gola e temeva di non riuscire a inghiottirlo prima di aver introdotto il visitatore. «Piacere è mio di vedervi, Miss March, ma avete gente?» E il professore si fermò. Di sopra giungeva il cicaleccio delle voci e lo scalpiccio dei piedi numerosi. «No, non abbiamo gente, siamo in famiglia. Sono ritornati mia sorella e mio cognato e si fa loro un po' di festa. Entrate, siate dei nostri anche voi.» Il signor Baer era un uomo socievolissimo, ma è probabile che si sarebbe correttamente ritirato per ritornare un altro giorno, se non che Joe gli aveva chiuso la porta alle spalle e tolto di mano il cappello. Forse anche influì su di lui il volto di Joe, che non pensava nemmeno a dissimulare la gioia che le dava la sua comparsa, e la mostrava con una franchezza alla quale non poteva rimanere insensibile quell'uomo solitario che si vedeva accogliere tanto bene, assai meglio di quanto avrebbe osato sperare. «Se non sono Monsieur de Trop, li vedrò tutti con molto piacere. Siete forse stata ammalata, amica mia?» La domanda gli venne spontanea e irresistibile, quando Joe, nell'appendere il soprabito, ricevette la luce in faccia ed egli vide che essa era piuttosto cambiata. «Malata no, ma stanca e triste. Abbiamo avuto tanti dispiaceri dopo l'ultima volta che vi ho veduto.» «Ah, sì, lo so. Ne ho sofferto tanto anch'io quanto ho letto.» E Baer le strinse la mano con tale simpatia che Joe ebbe l'impressione che nessun conforto le avrebbe fatto bene quanto quello sguardo buono, quella stretta forte e calda della grossa mano del professore. «Babbo, mamma, il mio amico, il professor Baer», disse Joe con l'espressione e il tono di orgoglio col quale avrebbe spalancato la porta e suonato uno squillo di attenti con la tromba. Seppure il visitatore avesse avuto qualche dubbio sull'accoglienza che lo attendeva, ogni dubbio si sarebbe dileguato prontamente davanti alla cordialità che trovò. Ognuno lo salutò cortesemente, prima di tutto per Joe e poi perché gli riuscì subito simpatico. Né poteva essere altrimenti, poiché egli aveva il talismano che apre ogni cuore, e quella gente semplice sentì immediatamente una calda simpatia per quell'uomo che, lo sapevano, era povero e sapeva sollevarsi al di sopra della povertà, e questo è il vero passaporto presso le nature veramente ospitali. E Baer si guardava attorno con l'aria del viandante che ha battuto a una porta che non è la sua, e appena entrato si è trovato come in casa propria. I due piccini si sentirono attratti a lui come le api al miele. Gli montarono a cavallo uno per ginocchio e lo conquistarono immediatamente con la loro audacia nel frugargli le tasche, tirargli la barba e volergli vedere l'orologio. Le donne si scambiarono sguardi di approvazione. Il signor March sentì in lui uno spirito affine al proprio e dischiuse i suoi tesori all'ospite, mentre John, il taciturno, ascoltava i loro discorsi senza dire una parola. E il signor Lawrence non riusciva a decidersi ad andar via. Se l'attenzione di Joe non fosse stata assorbita da altre cose, l'avrebbe divertita assai il contegno di Lori. Una vaga punta, non di gelosia, ma di qualcosa che somigliava a un sospetto, fece sì che il giovane sposo stesse dapprima sulle sue a osservare con circospezione il nuovo arrivato. Ma la cosa non durò molto. Ben presto Lori sentì suo malgrado che quell'uomo lo interessava e prima ancora di rendersene conto si trovò attratto nel circolo che si formava intorno a Baer, il quale, sentendo un'atmosfera di simpatia, parlava assai bene e con gran successo. A Lori si volgeva di rado, ma lo guardava spesso e un'ombra pareva passargli sul volto. Quasi lo cogliesse un rimpianto della sua gioventù sciupata davanti a quell'uomo che della gioventù era proprio nel fiore. Da lui lo sguardo pensoso andava a Joe con una interrogazione muta alla quale ella avrebbe risposto se l'avesse vista, ma aveva da badare agli occhi propri. Non le pareva prudente alzarli dalla calza che stava riparando con l'aria di una zitellona modello. Uno sguardo furtivo ogni tanto la ristorava come un sorso limpido e fresco lungo una passeggiata nel polverone. E così, con la coda dell'occhio, riuscì a vedere segni di buon augurio. Il volto di Baer aveva perduto quella tale aria distratta e mostrava il più vivo e vigile interesse per quanto gli accadeva d'intorno. E Joe, quel volto lo trovava giovane e bello, senza che nemmeno le venisse in mente di paragonarlo con quello di Lori, come faceva per tutti i giovanotti, i quali dalla prova uscivano sempre sconfitti. Oltre a ciò, quella sera, Baer aveva un'aria ispirata, sebbene l'argomento sul quale era andata a cadere la conversazione non si potesse davvero dire allegro, le usanze funebri dell'antichità. Il volto di Joe raggiava di trionfo al vedere Teddy messo alle strette nella discussione e guardando l'aria attenta e assorta con la quale suo padre ascoltava Baer, pensava che piacere gli farebbe avere una persona come il professore con cui parlare tutti i giorni. Infine, il signor Baer indossava un vestito nero nuovo fiammante che gli dava un'aria molto signorile. La foresta dei capelli era tagliata da poco e ravviata con cura, sebbene non rimanesse in ordine a lungo, giacché nel calore della discussione Baer ci piantava dentro la mano. Ma del resto, irta e arruffata quella testa a Joe piaceva, anche di più, poiché somigliava a quella di Giove Olimpico. Povera Joe. Come le abbelliva quell'uomo brutto, mentre, seduta nel suo cantuccio, seguitava a sferruzzare tranquilla, ma osservando tutto. Non le sfuggiva nemmeno il fatto che i polsini di Baer erano immacolati, non solo, ma adorni di due gemelli d'oro. Caro, non si sarebbe fatto più bello per andare a nozze, pensò Joe, e quella parola, nozze, passandole per il capo, la fece arrossire talmente che dovette lasciar cadere il gomitolo per avere una scusa per nascondere il volto. Ma la cosa non le riuscì bene come sperava, perché proprio al momento di dar fuoco alla pira funebre il professore lasciò, per così dire, cadere la fiaccola e si precipitò per raccogliere la pallottola di lana azzurra. Ne venne naturalmente il cozzo delle due teste, i cui proprietari videro le stelle e si rialzarono, rossi in volto e ridenti, senza aver raggiunto il gomitolo, e tornarono a sedersi, pentitissimi di essersi alzati. Il tempo passava senza che nessuno se ne rendesse conto. Anna, accortamente, aveva portato via di buon'ora i due bimbi e anche il signor Lawrence andò a riposare presto. Gli altri rimasero a chiacchierare intorno al fuoco e persero del tutto la nozione del tempo. Finché Meg si mise in testa che Daisy doveva essere caduta dal letto e Demi doveva certamente essersi appiccato il fuoco alla camicia da notte per studiare come son fatti i fiammiferi e propose di togliere la seduta. Prima dobbiamo fare la nostra cantatina secondo la bella usanza di una volta, disse Joe, visto che ci troviamo tutti insieme. Ma dentro di sé Pensava che sfogo piacevole ed utile sarebbe stato per l'emozione e il giubilo che sentiva mettersi un po' a gridare. Non c'erano tutti, veramente, ma a nessuno le sue parole parvero dette alla leggera. Beth si trovava ancora fra loro, tranquilla presenza invisibile e più cara che mai, poiché la morte non poteva infrangere quei legami che uniscono la famiglia e che l'amore rende indissolubili. La piccola seggiola vuota era sempre là, al suo posto. Il cestino da lavoro, bene rassettato, col lavoro rimasto interrotto quel giorno, che l'ago era diventato troppo pesante per lei. Tutto era ancora sulla mensola solita. Il piano, che adesso non veniva toccato che raramente, era sempre lì. Sopra di esso, il volto di Beth, sereno e sorridente come nei giorni lontani, li guardava e pareva dire: «Siate felici, io sono sempre con voi». «Amy, suona qualche cosa, fa sentire i tuoi progressi», disse Lori con orgoglio comprensibile di marito e di maestro che ha un'allieva promettente. Ma Amy, girando lo sgabello a vite dalla tappezzeria un po' stinta, con gli occhi di lacrime, disse: «No, stasera, caro, non mi sento davvero di dare spettacolo». E invece diede spettacolo di qualche cosa che era meglio della bravura e della tecnica brillante, perché cantò le canzoni di Beth con una dolcezza che il miglior maestro non avrebbe saputo insegnarle, e commosse tutti con un potere più suggestivo di quello che avrebbe potuto darle qualsiasi altra ispirazione. Quando la sua bella voce limpida tacque d'un tratto, dopo l'ultimo verso dell'inno che Beth preferiva, «La terra non ha dolore che il cielo non possa guarire», ci fu un gran silenzio. Amy si gettò fra le braccia del marito, che si era messo alle sue spalle, sentendo che l'accoglienza allo sposo in casa sua non sarebbe stata completa senza il bacio di Beth. «E adesso terminiamo con la canzone di Mignon, quella che canta il signor Baer», disse Joe prima che il silenzio divenisse penoso. Baer schiarì la gola con un di riconoscenza, andò a cercare Joe nel suo angolo e le disse: «Cantatela come andiamo sempre molto bene noi due in musica». Era un complimento. In realtà Joe per la musica non aveva la minima disposizione, ma gli avrebbe detto di sì anche se l'avesse pregata di cantare un'opera da capo a fondo. Attaccò dunque coraggiosamente e tirò innanzi senza preoccuparsi del tempo e del tono, cosa che non ebbe grande importanza, perché Baer cantava davvero tedesco, bene e con l'anima. E la parte di Joe a poco si ridusse a un ronzio sommesso che non impediva nemmeno ad essa di ascoltare la bella voce calda che pareva cantasse per lei sola. «Conosci tu il paese?» era il verso che il professore amava di più, e per paese intendeva la Germania, ma questa volta sembrò appoggiasse con più calore e con più forza su quelle altre parole: là solo con te, o mia diletta». E il tenero invito commosse tanto una delle persone che l'ascoltavano da farle venire una gran voglia di rispondere che quel paese lei lo conosceva e ve lo avrebbe accompagnato quando voleva. La romanza ebbe un gran successo e l'artista modestamente si ritirò sotto gli applausi. Ma pochi minuti dopo sembrò che egli dimenticasse tutta la sua correttezza, e fu quando vide Amy che si metteva il cappello. Gliel'avevano presentata semplicemente come sorella e non l'aveva udita chiamare col suo nuovo nome. Spalancò allora tanto d'occhi, e più ancora li spalancò quando, nel salutarlo, Lori gli disse nella maniera più cortese: «Mia moglie ed io saremo ben lieti di vedervi, signore. Sarete sempre il benvenuto in casa nostra, qui accanto». Il professore si profuse in ringraziamenti e pareva che d'un tratto avesse avuto chissà quale notizia rassicurante e rasserenante. Lori lo trovò buffo, quel tedescone comunicativo che aveva il cuore sulle labbra. «Anche io te pontare, fia, ma tornerò con fero piacere, cara signora, se me lo permettete. Ho un piccolo affare che mi tratterrà per qualche giorno in questa città». Il discorso era rivolto alla signora March, ma il professore guardava Joe, e il consenso a parole della madre fu non meno cordiale di quello di Joe con gli occhi, perché la mamma non era cieca agli interessi della figliuola, come immaginava la signora Moffat. «Ho l'impressione che sia un uomo assai dotto», osservò il signor March tranquillo e soddisfatto dopo che l'ultimo ospite fu uscito. «Ho la certezza che sia un uomo assai buono, aggiunse la signora March senza esitazione, mentre dava la corda alla pendola sul caminetto. Me l'aspettavo che vi sarebbe riuscito simpatico. Fu tutto quello che disse Joe, avviandosi cheta cheta alla propria stanza. Chissà, pensava, che genere d'affari avrà qui in città il professore. Forse si trattava di qualche grande onorificenza, concluse, e lui, per modestia, non ne parlava. Se avesse potuto vedere il volto di lui quando, solo nella propria camera, contemplava il ritratto di una fanciulla rigida e severa, coi capelli folti ma non molto lunghi, che pareva scrutasse intenta il futuro. La cosa, forse, avrebbe gettato un po' di luce sui suoi dubbi, specialmente quando, spento il gas, egli, all'oscuro, depose un bacio su quel ritratto.